Zolt. Fulminati in azienda. Dottor, permesso? Avanti. La volevo salutare perché sono in partenza per il mio stage in Cina. Paco, ti stavo aspettando. Ti stavo aspettando perché è un momento importante. Io ho grandi speranze su di te. Tu ti stai rendendo conto che presto saremo i padroni della Cina? Dottor, veramente, amico, ho fatto qualche studio preliminare, eh? Sì, ascoltami. Ascoltami, Paco, lo sapevo. Io lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. E tu potrai dire: io c'ero. Dillo con me. Ieri ero là. Sì, vabbè, là. Era io, c'ero, comunque va bene. Paco, ascoltami. È un momento storico importantissimo. Stiamo per cambiare la storia, Paco, tu e Dio. Stiamo per cambiare la storia. Dottore, e a proposito proprio della storia, no? Sì. Sti cinesi de Zhou Zhou, sì. Amico, ho visto, case grandi. Cioè, amico, studia un poco l'organizzazione, la storia di questa organizzazione. Dai, Zuzu, organizzazione, dai. Mi pare una parola un po' grossa per una fabbrichetta cinese. Marta, te lo devo dire, sono emozionatissimo. Ma sai che mi vedo già là in Cina a tenere conferenze con la traduzione simultanea Cinuita, Sinsun Lam. No, ma invece no, scusami, pensavo che forse dovremmo pensare di prendere un insegnante di cinese o comunque un esperto di ideogrammi. Brava, sono d'accordo Marta. CS, ci siamo, mi piaci così, proattiva. Mi sorprendi sempre con le tue idee. Sì, dobbiamo prepararci a questo evento. Comunque, che notizie hai? Dimmi, l'hai sentito Paco? Paco no, Paco io non l'ho più sentito, da quando è partito scomparso, missing. Chiamiamo Centrifuga, il nostro ufficiale di collegamento, Centrifuga. Eccomi qua, che c'è? Paco, dove è andato a finire Paco, il nostro ragazzo in Cina? Ragazzo, ma se c'ha 37 anni... Cosa c'entra, un ragazzo dentro, dai, abbiamo le informazioni che ci servono per comprare questi cinesi o no? Ma che sta a dire sul pezzo, dove ce l'avevamo i soldi per comprare allora, cinesi? Occupati delle cose tue, tu cosa ne sai tu di comprare, eccetera, eccetera. Ho capito che non sai niente. Dai, schedula, dove sei? Le risorse umane? Sono qua. Ditemi qua. Qualcosa di Paco. Ma veramente, essendo un progetto commerciale, i contatti li doveva tenere Centrifuga. Le risorse umane hanno terminato il loro compito con il mandato di stage. Non vorrei essere proprio... Siete sempre i soliti. Ci devo pensare io. Devo pensare io anche a tenere i contatti con Paco, il nostro agente speciale in Cina. Questa però telefonata intercontinentale ve la tolgo dalla busta paga. È chiaro? Pronto? Pronto? Uè, involtino primavera, ciao Paco, come va l'esperienza cinese? Dottor, che cosa? Sei lì in vacanza? Uè, guarda che non puoi scomparire. Io ti mando lì con una missione da compiere e tu non mi richiami mai, non mi fai sapere più niente. Dottor, non sai che sono scomparso, sai che non ho ancora finito il giro di tutte le strutture del Zhou Zhou. Sta azienda dei cinesi è enorme. Dai, Zhou Zhou, Bruce Lee della Cina con furore, cosa stai dicendo? Non mi far arrabbiare subito, Paco, dimmi qualcosa di utile. Non mi sono spiegato, dottor, che ripeto, sti cinesi sei così grandi che non potremmo permettersi di comprare, ma neanche la più piccola filiale che ha. Ascolta, non ti preoccupare tu, dimmi di quanto sono grandi sti cinesi, quanto sono grandi? Vabbè, ha 500.000 dipendenti solo a Zhou Zhou City. Vabbè, 500.000 dipendenti, poi ci pensiamo, la metà saranno stagisti, e quindi qual è il problema? Se 50.000 persone a filiale, dottore. Vabbè, ho capito, ci avranno una mezza filiale lì a Hong Kong, non ti preoccupare. No, 2.000 filiali, se milioni di persone. Vabbè, ma si sono montati la testa questi cinesi, cosa devo fare? Devo comprare tutta la Cina. Vabbè Paco, non ti preoccupare tu, strappami il prezzo. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.